Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità e prova a immaginare un futuro per la vita di tutti sul pianeta privilegiando il punto di vista degli animali non umani. È la puntata numero 616 e parleremo di fallimenti politici e movimenti sociali, di pinguini in viaggio e allevamenti da chiudere, della relazione fra i cani e gli umani. Gabriele Palloni, nel suo mirabile eclettismo, cura sia la ricetta della settimana sia la colonna sonora della puntata. Non è un segreto che la conferenza di Glasgow sul clima sia un fallimento. Dovrebbe essere ovvio che non possiamo risolvere la crisi climatica con gli stessi metodi che l'hanno provocata. E sempre di più la gente se ne sta rendendo conto. Molti si chiedono cosa serva ancora perché i potenti si sveglino. Ma sia chiaro, sono già svegli. Sanno cosa fanno e quali valori inestimabili stanno sacrificando per evitare che le cose cambino. Creano scappatoie e dispongono le cose in modo da poter continuare a trarre vantaggio da questo sistema distruttivo. Scelgono deliberatamente di continuare a permettere lo sfruttamento delle persone, della natura e la distruzione delle condizioni di vita presenti e future. La conferenza si è trasformata in un evento di pubbliche relazioni, dove i leader fanno discorsi bellissimi e annunciano splendidi obiettivi, mentre sotto la superficie i governi dei paesi del nord del mondo rifiutano ancora di agire in modo drastico. Ma i fatti non mentono. Per rispettare gli obiettivi dell'accordo di Parigi e minimizzare il rischio di scatenare delle reazioni irreversibili, c'è bisogno di immediate e drastiche riduzioni delle emissioni di gas serra, diverse da qualsiasi cosa il mondo abbia visto finora. E siccome non abbiamo le soluzioni tecnologiche che da sole potrebbero ottenere un risultato anche minimamente vicino, dobbiamo cambiare nel profondo la nostra società. La crisi climatica non viene dal nulla, è legata ad altre crisi e ingiustizie che risalgono al colonialismo e oltre. Crisi basate sull'idea che alcune persone valgono di più e hanno il diritto di rubare alle altre, sfruttarle e prendere le loro terre e risorse. È ingenuo pensare che potremo risolvere questa crisi senza andare alle sue radici. Alcuni dicono che siamo troppo radicali, ma la verità è che quelli radicali sono loro. Combattere per salvare i sistemi da cui dipende la nostra sopravvivenza non è radicale. Invece credere che la nostra civiltà possa resistere a un aumento di 2,7-3 gradi centigradi è estremamente radicale. È pura follia. Questo che abbiamo appena letto è l'intervento svolto da Greta Thunberg alla conferenza COP26 lo scorso 5 novembre a Glasgow, nella sintesi riportata dal settimanale internazionale. Ci pare una buona, per quanto disperante, introduzione a un giudizio sul vertice e sul clima, un evento destinato a produrre effetti su tutti gli esseri viventi, umani e no, e perciò al centro della nostra attenzione. Abbiamo chiesto a Francesco Panier, giornalista, esperto di ambiente, curatore per il nostro programma di una bellissima rubrica, Lessico dell'Antropocene, di fare il punto della situazione all'indomani del vertice scozzese. E così la COP26, con 24 ore di ritardo tra le lacrime del presidente del vertice, l'inglese Alok Sharma, si è chiusa sabato pomeriggio con un accordo. È un accordo difficile che scontenta quasi tutti. Scontenta i paesi ricchi perché l'India, sostenuta dalla Cina, ha fatto un blitz nella plenaria finale, proponendo una modifica dell'ultimo secondo in cui i riferimenti alla messa al bando del carbone e dei combustibili fossili, già indeboliti nella seconda e nella terza bozza, sono stati definitivamente svuotati. Scontenta anche i paesi in via di sviluppo, perché ancora una volta l'Occidente si è messo di traverso alla creazione di un fondo per riparare le perdite e i danni che i più esposti subiscono a causa della crisi climatica. Il gruppo dei paesi africani ha dovuto cedere perché, mentre minacciava di far saltare il banco, è stato pregato dall'AUSIS, l'alleanza dei piccoli stati insulari a rischio sommersione, che chiedeva di adottare una linea meno intransigente. Le piccole isole hanno infatti preferito tenersi stretta la promessa nel documento finale che le parti avrebbero continuato a lavorare per evitare un riscaldamento globale superiore al 1,5 gradi entro la fine del secolo rispetto al 1850, oltre a un passaggio sull'aumento dei finanziamenti per la resilienza delle nazioni più in difficoltà. Se ne riparlerà l'anno prossimo, in Egitto, alla COP27 di Sharm el Sheikh. Intanto, nella storia di questo vertice, rimarrà il comportamento ipocrita del vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, l'inviato per il clima, che in plenaria ha mostrato dallo smartphone la foto della nipotina, salvo poi chiedere agli stati più poveri, nelle segrete stanze del negoziato, di eliminare dai testi il riferimento ai fondi dovuti da quelli industrializzati per le responsabilità storiche nella crisi climatica. Niente male il cinismo di questo nonno verso i coetanei meno fortunati di sua nipote. Finora la maggior parte dei pochi progetti approvati dalle Nazioni Unite per trasferire aiuti a quelli più poveri si basa su prestiti e non su donazioni, aumentando il debito di nazioni già soffocate e climaticamente invivibili. Tuttavia la taccagneria dei paesi ricchi che cercano di ottenere profitto e posizioni geopolitiche anche tramite i finanziamenti per il clima comincia a ritorcerglisi contro, perché i poteri emergenti come Cina e India ormai competono ad armi pari. Se le potenze tradizionali e queste grandi economie emergenti ottengono sempre qualcosa di utile, la COP però rimane uno spazio in cui i fragili giocano un ruolo marginale, mentre invece l'intero processo dovrebbe essere costruito sui loro bisogni e necessità. Al momento, questo stallo proietta il pianeta verso un aumento di temperature a fine secolo di 2,4 o 2,7 gradi centigradi rispetto al periodo preindustriale, con una crescita prevista delle emissioni del 14% nel 2030 rispetto al 2010. Chi parla di Glasgow come di un successo solo perché il documento finale rimpegna i paesi a tagliare i gas serra del 45% in questo decennio, sempre rispetto ai livelli del 2010, dovrebbe tener conto di questo semplice dato di realtà. Un dato che ci racconta come, di questo passo, la transizione non sarà mai una trasformazione rapida e felice, ma piuttosto lenta e cronica. E probabilmente arriverà a compimento quando il pianeta sarà ormai surriscaldato, i ghiacci polari fusi e il livello del mare salito a dismisura. Avremo il solare e l'eolico, ma non avremo rimosso le diseguaglianze, e la via sarà lastricata di vite spezzate e diritti negati. Il nostro ruolo di ecologisti e reti della società civile in questa fase è quindi quello di aumentare il livello delle nostre azioni, delle nostre denunce, della nostra resistenza. Perché come dimostrano le 2 settimane di Glasgow, nessuno ha davvero a cuore una transizione ecologica equa, profonda, rapida ed efficace. Tocca a noi fare un altro passo avanti. Yeah. 23 novembre di un anno fa, il ministro della Salute Roberto Speranza dispose la sospensione in Italia della possibilità di allevare visoni per produrne pellicce. Era una misura d'emergenza presa per evitare che tali strutture divenissero focolai di diffusione del Covid-19, come avvenuto in altri paesi. A febbraio la misura è stata prorogata fino a tutto il 2021 e ora potrebbe essere trasformata in un divieto definitivo. E questa è la proposta contenuta in un emendamento alla legge di bilancio presentata da Michela Vittoria Brambilla, deputata di Forza Italia e presidente del gruppo interparlamentare per i diritti degli animali. Si tratta di una proposta particolarmente interessante perché non sembra una pura iniziativa di bandiera, fatta per dimostrare agli elettori il proprio interesse per la questione, pur senza avere concrete possibilità di successo. L'emendamento considera infatti la necessità di prevedere una transizione che tenga conto delle aziende, del comparto e dei lavoratori impiegati e quindi si preoccupa della sua effettiva attuabilità e prevede lo stanziamento di poco meno di 1 milione di euro per indennizzi e contributi a fondo perduto per la riconversione delle aziende coinvolte. Chiudiamo entro 6 mesi gli allevamenti di animali da pelliccia e puntiamo alla loro riconversione, ha spiegato Brambilla in una conferenza stampa convocata per illustrare l'emendamento. Vogliamo seguire l'esempio dei paesi europei che hanno già messo al bando gli allevamenti come il Regno Unito e i Paesi Bassi, o stanno formalizzando la decisione come la Francia e l'Irlanda. Ci sono tutte le ragioni, sostiene Brambilla, per rendere definitiva la chiusura di queste strutture, non solo per il rischio sanitario dovuto al perdurare della pandemia, ma anche per gli aspetti etici e per l'impatto ambientale di questo settore. Per le aziende coinvolte l'emendamento prevede un indennizzo per ogni animale presente, un contributo a fondo perduto pari al 30% dell'ultimo fatturato e un altro contributo fino a un massimo di 10.000 euro per la demolizione o riconversione degli impianti. Come detto, il costo totale sarebbe di poco inferiore al milione, ma si tratterebbe evidentemente di un passo di civiltà. Nel gennaio 2020 erano attivi in Italia 13 allevamenti per un totale di 82.000 visoni. Oggi, dopo lo stop dovuto alla pandemia, le aziende rimaste attive sono 10, ma solo 5 di queste hanno animali presenti nelle loro strutture per un totale di circa 20.000 esemplari. When you were almost ready, when you were almost ready to leap from the sky. Your future to the wind, fearless, falling down from the sky, down here by my side. Oh, I've been waiting, you know, I've been waiting. I said, leap into my arms, babe. Come on, dive into my soul. Come on. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul. Nei giorni scorsi, come riferiva il quotidiano britannico Il Guardian, sono cominciate le trasmissioni di Dog TV, una nuova rete dedicata ai cani. Ai cani intesi come spettatori. Secondo i responsabili, la rete mette in onda programmi pensati per i cani nei momenti di solitudine. Le immagini, i colori, i suoni, si sostiene, sono stati concepiti ascoltando tecnici ed esperti cinofili in modo da accompagnare nel miglior modo possibile le tristi ore di solitudine dei cani lasciati a casa dai propri accompagnatori umani. Che dire? Che viene in mente un'intervista di una decina d'anni fa con Valerio Pocar, professore universitario, autore del primo libro di sociologia dei diritti animali pubblicato in Italia, all'epoca garante della tutela degli animali al Comune di Milano, il quale Pocar proponeva corsi obbligatori di convivenza fra umani e animali per chiunque intendesse prendere con sé un animale, in particolare i cani. Era una proposta che nasceva da una semplice constatazione, cioè che troppo spesso si decide di prendere con sé un animale senza conoscere granché della sua natura, delle sue esigenze e dell'impegno che comporta la decisione di vivere insieme. Ogni singolo cane, come ogni singolo animale, ha naturalmente caratteristiche uniche, un carattere, un'indole, delle preferenze. Ma i cani, nel loro insieme, condividono alcuni tratti essenziali. E fra questi, i principali sono l'attitudine a esplorare il mondo circostante attraverso il senso dell'olfatto e il desiderio costante di stare al fianco del proprio, chiamiamolo così, non padrone. Ecco, l'idea di una TV per cani, cioè di uno strumento che attraverso le immagini e quindi la vista fa compagnia al cane in assenza del non padrone, sembra muoversi in direzione opposta rispetto al necessario. Sembra una cosa pensata più per gli umani, per i loro bisogni e sensi di colpa, che per gli animali. Insomma, la TV per cani, se proprio deve andare in onda, potrebbe almeno pensare a un palinsesto che mette in primo piano programmi di formazione destinati ai non padroni, giusto per ricordare loro qual è la vera aspettativa dei cani: annusare il mondo e stare insieme ai loro umani di riferimento. L'ultima notizia è un fatto di cronaca tipico dell'era che viviamo, l'antropocene, e della sua fase caratterizzata da incipienti cambiamenti climatici, la fase che stiamo vivendo. È una notizia che arriva dalla Nuova Zelanda e in particolare da una spiaggia della Nuova Zelanda. Lì, quando Harry Singh, un cittadino che passeggiava in riva al mare, lo ha visto immobile in riva al mare, ha pensato che si trattasse di un peluche. Ma una volta avvicinatosi, notando un leggero movimento della testa, si è accorto di avere di fronte un vero pinguino. Giunto sulla spiaggia di Birdlings Flat, dopo aver percorso la bellezza di 3.000 chilometri, il pinguino si era perso nell'oceano ed era arrivato lontanissimo dal suo habitat naturale. L'animale era esausto e perciò sembrava finto. Non si è mosso per un'ora, ha raccontato Harry, che ha subito chiamato i soccorsi e ha tenuto d'occhio l'animale fino al loro arrivo, per evitare che l'eroico pinguino fosse aggredito o riportato in mare dalle onde. Nel giro di poco, e grazie a una foto postata sui social network, il pinguino è diventato popolare in Nuova Zelanda, con il nome, non troppo fantasiosa, a dire il vero, di Pingu. Il veterinario che se ne è preso cura, Thomas Strake, lo ha trovato leggermente sottopeso e disidratato, però tutto sommato in buone condizioni, e ha provveduto a rifocillarlo. Le autorità neozelandesi hanno già deciso che appena avrà ripreso le forze, Pingu sarà liberato su una spiaggia sicura, sulla penisola di Banks, un'area che è priva di cani. È la terza volta che un pinguino di Adelia, la specie alla quale appartiene l'esemplare ritrovato, raggiunge la costa neozelandese, allontanandosi dall'Antartico. Altri due episodi simili erano stati segnalati nel 1993 e prima ancora nel 1962. Per gli esperti, il fatto che questi pinguini continuino ad arrivare in Nuova Zelanda è il segnale di qualche cambiamento in corso nell'oceano. E presumibilmente si tratta di cambiamenti che hanno a che fare con il precario stato di salute dell'ecosistema marino. A Pingu è dedicata la ricetta della settimana, a cura del tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Sentiamo che cosa ci propone. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Potreste commentare che la torta pinguino come ricetta a tema della settimana potrebbe essere un po' scontata. Ed io potrei altrettanto facilmente controbattere che anche chiamare Pingu un pinguino non dimostra un grande sforzo di creatività. Quindi bando alle ciance, accendete il forno e andate a prendere frusta e spatola. Gli ingredienti per uno stampo da plum cake per la torta pinguino sono, per la base, 150 g di farina tipo 0, 50 g di fecola, 30 g di cacao amaro in polvere, 60 g di zucchero di canna, 180 ml di acqua, 20 ml di olio di semi di girasole, della vaniglia, 5 g di crema or tartaro, un pizzico di bicarbonato e un pizzico di sale. Per la copertura al cioccolato, 100 g di cioccolato fondente, 80 ml di acqua, 20 g di zucchero di canna. Per finire la torta, 150 ml di panna di cocco. Iniziate preparando la base della torta. Mescolate con una frusta tutti gli ingredienti indicati in una boule capiente. Se l'impasto dovesse risultare troppo denso, aggiungete pochissima acqua, un po' alla volta. Dovrete ottenere un impasto liscio e cremoso, ma piuttosto denso. Riempite una sac à poche con l'impasto e formate due rettangoli su un foglio di carta forno della dimensione della base dello stampo da plum cake che userete per confezionare la torta. Fate cuocere in forno statico a 180 gradi per 15 minuti. Togliete dal forno e lasciate raffreddare. Adesso preparate la salsa al cioccolato. In una piccola casseruola fate sciogliere lo zucchero nell'acqua e unite il cioccolato fondente tritato. Fate ritirare un minuto e togliete dal fuoco. Versatene un terzo sul fondo dello stampo da plum cake sopra ad un foglio di carta forno e mettete in freezer per 30 minuti e conservate il resto della salsa a temperatura ambiente. Nel frattempo montate la panna di cocco. Recuperate lo stampo da plum cake e rivestitelo con la pellicola per alimenti. Adagiate sul fondo uno strato di torta, coprite con uno strato di panna di cocco, adagiate lo strato di cioccolato ancora congelato e versate un secondo strato di panna. Terminate con il secondo strato di torta. Fate riposare in frigorifero per mezz'ora. Infine togliete la torta dallo stampo e adagiatela su di una griglia. Glassate la torta con la rimanente salsa al cioccolato e fate riposare nuovamente in frigo per un'ora. Servite la torta fredda e, se lo gradite, guarnite con scaglie di cocco. Argentina, Buenos Aires, el puerto de Santa María del Buen Aire. Per questa settimana è tutto, vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Francesco Panier, Zenone Sovilla, Gabriele Pallone, Gianni Ferrarotti, Anna Granata, Gianluca Masala e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. Per questa settimana è tutto, a risentirci fra 7 giorni, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.